Ah, il corteo sta proseguendo dalla piazza in cui doveva finire, dobbiamo proseguire ad andare avanti, in realtà stiamo andando verso il cosiddetto Bronx di Torre Vecchia, ovvero una serie di case popolari su via di Torre Vecchia, dove è molto sentito il tema della manifestazione di oggi, ovvero la svendita delle case popolari all'asta. Corteo, devo dire, molto molto partecipato, per quanto può essere un corteo territoriale, partecipato in maniera particolare dall'inquilinato di zona, da chi... questa misura contenuta nel decreto Lupi, corteo che fra l'altro, se è, come dire, una nota sicuramente positiva, è anche la conflittualità sicuramente ancora tutta da esprimere, però che si sta provando a organizzare, insomma c'è molta rabbia, molta voglia di contestare anche queste politiche governative che qui nelle varie periferie, soprattutto di Roma, ma in tutte le città italiane, come dire, molto grandi, si fa, insomma, queste politiche cosiddette bonus Renzi, sia per la famiglia, gli 80 euro che risparmiando, sembra che qui non siano mai arrivate, insomma. È evidente una rabbia che cresce qua, è un corteo decisamente rabbioso, è un corteo anche estremamente militarizzato dalla questura, sono diversi blindati, tutta la Digos schierata, insomma. Per essere un corteo territoriale evidentemente un po' si è centrato il segno, insomma, ovvero quel lavoro nei territori che ci diciamo spesso di fare, in questi casi sta dando un frutto positivo, anche perché in piazza insieme agli abitanti, diciamo, delle case popolari ci sono anche gli abitanti delle occupazioni di Torre Vecchia e di Battistini. E a proposito, io prendo appunto l'occasione di questo corteo di questa mattina, e quindi degli argomenti che si provano, delle tematiche che si provano a sollevare questa mattina da parte degli inquilini delle case popolari, per parlare anche di un'iniziativa che ci sarà domani al Senato in Piazza delle Cinque Rune da parte dei movimenti di lotta per la casa. In quanto appunto ci sarà Esposito che parlerà al Senato rispetto alle risorse da destinare ancora alla costruzione del TAV, quella insomma famosa ormai opera inutile a cui stanno destinando ulteriori risorse pubbliche. E quindi quello che ti chiedo è perché ci sarà questa manifestazione e quali saranno appunto le tematiche che verranno portate in piazza. Sì, diciamo, improvvisamente Esposito, che conosciamo bene, quanto credo più sostenitore del TAV di lui non esista in Italia, ma soprattutto più accanito anti no TAV non esiste, si è stranamente accorto, insomma, non sappiamo bene per quale motivo abbia aperto gli occhi del fatto che i costi del TAV stanno lievitando in maniera esponenziale. Si parla di 7 miliardi, ma se si aggiunge anche il terzo valico e altri progetti TAV, si arriva insomma a superare i 10 miliardi di euro, che, come dire, in una situazione in cui ci ritroviamo a fare sacrifici, e oggi ne è un esempio, insomma, in cui si dipende anche quanto di conquistare negli anni passati come le case popolari, appare abbastanza assurdo per quello che è un progetto ormai abbandonato da buona parte dell'Unione Europea. Domani appunto ci sarà questa mobilitazione tutto al Senato, proprio perché Esposito ha chiesto al Parlamento al ministro Lupi in particolare di riferire in aula sui costi del TAV, e quindi anche un momento, come dire, decisamente importante rispetto alla trasparenza di quest'opera. Invece staremo lì, ovviamente abbiamo chiamato questo presidio lì a Piazza delle Cinque Lune dalle 3 del pomeriggio, perché più o meno per quell'ora dovrebbe iniziare la discussione in aula su questo, ovvero il ministro che riferisce in aula su questo, e ovviamente perché è un tema strettamente legato a quello della casa, è strettamente legato in quanto le risorse disponibili in questo paese vengono date, donate a costruttori, in questo caso le ditte che costruiscono il TAV, opere o anche a servizi, come si dire, pubblici ma inutili, e il TAV li racchiude tutti e due, sia interessi privati che interessi pubblici, però, come dire, quel pubblico che è di pochi e non effettivamente di tutti. All'interno del insomma, questo è un po' un modus operandi che sta tenendo un collante che unisce destra, sinistra, parlamentare da tantissimi anni ormai. Insomma, sul fronte TAV, per fare un esempio molto, molto chiaro, sono tutti d'accordo, dalla destra, cioè dal PD all'ex PDL, Intesa Forza Italia, passando per tutti gli altri vari partiti più o meno di centro, più o meno di centrodestra o più o meno di centrosinistra. All'interno poi dell'ultimo decreto sulla casa, quello Lupi, vi è, come dire, l'ennesima speculazione immobiliare rispetto alla questione Expo. I terreni Expo abbiamo visto come sono appaltati, diciamo così, a cooperative, chiamiamole cooperative, e banche di gestione Comunione e Liberazione. È un modo che continua ad andare avanti sicuramente a scapito di quella che è la collettività. Si fanno opere inutili come il TAV, come l'Expo, si arricchiscono i pochi costruttori che ne vanno, che partecipano a questi bandi, si arricchiscono quei mafiosi che stanno dietro a queste opere. Gli scandali TAV, ma gli scandali Expo ne sono l'esempio. Il tutto mentre in quartieri come ad esempio oggi Prima Valle, ma come quasi tutti i quartieri, anzi direi tutti i quartieri di questo paese, appunto avviene il saccheggio definitivo dei territori, ma anche con il tentativo di svendita delle case popolari, se non con il tentativo di svendita dei immobili pubblici, e via discorrendo, quando c'è una fortissima emergenza abitativa, una fortissima emergenza sul lavoro, è una fortissima emergenza in generale sociale, una rabbia che è il nostro compito, secondo noi, come dire, riuscire a organizzare, riuscire a proiettare in una vera lotta sociale che comprenda i vari territori. Oggi stiamo facendo il primo passo, domani proveremo, come dire, un passo un pochino più pubblico, un pochino più largo. Invitiamo ovviamente tutti i compagni, le compagne, le reti, le associazioni varie a venire in quella che sarà una piazza aperta, con un microfono aperto, per ragionare di questi temi, la speranza poi magari anche di provare a fare un corteo, se i numeri ci garantiscono un corteo. Ovviamente come dire, la zona non è la migliore, diciamo, la più ricettiva, ma è una zona comunque sensibile per quanto riguarda i palazzi del potere, ed è sicuramente, come dire, un momento in cui un corteo non è una cosa scontata. Abbiamo visto le recenti cariche, ci arrivano voci, non so se confermate, di cariche questa mattina a Milano, agli sgomberi dei palazzi occupati, cioè delle case occupate. Quindi il clima è un po' questo. Sì, infatti prima abbiamo anche sentito al telefono i compagni di Massa Carrara che ci raccontavano delle alluvioni in quelle zone, e il fatto che per l'ennesima volta le istituzioni se ne lavano le mani, non stanziando appunto quelle risorse utili per poter bonificare, per poter mettere in sicurezza quei territori a rischio, dove appunto a rischio di alluvioni, come abbiamo visto per Genova, come abbiamo visto per altre situazioni nel territorio perché bastano, cioè, nel paese in cui vengono costruiti, cioè c'è l'ipotesi di costruire TAV da 10 e passa miliardi, in cui si fa Expo, anche lì miliardi buttati al vento, ovviamente bastano due gocce di pioggia che, come dire, le città vengono allagate da fiumi che fino a un minuto prima erano fiumiciattoli e che un minuto dopo diventano come dire, incontrastati fenomeni naturali. Ma ovviamente là poi su Massa Carrara, ma in generale sulla Toscana, la situazione è stata veramente drammatica. Una diga costruita il giorno prima, finita di costruire il giorno prima, che non ha resistito minimamente. Insomma, questo è chiaramente come i soldi pubblici vengono spesi male, come il tutto viene appaltato continuamente ai soliti costruttori noti, ai soliti mafiosi. La volontà del profitto, cioè la logica del profitto, fa sì che non ci sia una grossa volontà effettivamente di fare del bene, diciamo così, per dirla in maniera un po' rozza, però, ma c'è solamente il desiderio, come dire, di appunto massimizzare i profitti, e poi ci accorgiamo di quello che succede. Quindi, noi pensiamo che la data di domani sia importante, nel momento in cui comunque un po' il potere smaschera il suo volto, insomma, perché quando anche un senatore così accanitamente sitav si prende, come dire, tira un po' fuori le unghie, diciamo così, ma in maniera abbastanza strumentale, per dire io non metto la faccia su un'opera così costosa e con dirette infiltrazioni, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va anche nella cosiddetta governance. Proviamo a ragionarla insieme domani, insomma, invitiamo appunto tutti e tutte, proviamo a ragionarla insieme anche il 12, quando faremo questa assemblea pubblica all'occupazione, quella della Sapienza, la cosiddetta Tre Serrande, proviamo a costruire un 14 novembre che sia di sciopero sociale, che sia uno sciopero diffuso in maniera più pubblica, larga e partecipata possibile, ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con i suoi percorsi, ma tutti che vadano nella direzione che è quella, come dire, espressa in questi ultimi anni di movimento, un conflitto pubblico aperto ma reale, insomma, da chi, come dire, sta vivendo in prima persona questo